Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Lesto More Rock. Domenica caldissima, quindi sembrerà una sorta di televendita, ma in realtà non lo è. È una breve introduzione a chi ho in intervista qui con me. Me la sono studiata prima, quindi dopo mi direte se fa cagare oppure è anche simpatica. Quindi volevo introdurre questa nuova intervista dicendovi se siete stanchi di questo caldo afoso che ci ha colpito nei giorni precedenti, comunque anche oggi è bello, bello impegnativo. La possibilità c'è, andando dalle parti di Rimini, ma non Rimini mare, ma Rimini montagna, o perlomeno sui colli, sui monti, dove c'è un bel fresco. Quindi avrete anche la possibilità di ascoltarvi una due giorni di buona musica, e questo è per dirvi semplicemente, con questa battuta, questa sorta di simpatia per modo di dire, che ho qui in intervista i ragazzi dell'Hillside Fest, che si terrà il 4 e il 5 luglio a Monte Ghidolfo, come dicevo prima, quindi tra le montagne colline di Rimini, arrivati alla quarta edizione. Chiedo venia per essermi sbagliato nel post, avendovi detto la terza edizione. Comunque, ciao ragazzi, ciao Thomas, ciao Enrico, come state? Ciao a tutti. Ciao, tutto bene. Dai Dani. Allora, siete carichi per questa quarta edizione? Sì. No, bene. Siamo carichi. Inizia l'ansietta. Certo. Un po' manca, però, dai. un po' la tensione. No, più che altro le ultime beghe organizzative adesso stiamo risolvendo, quindi va bene. Va bene. Ma prima di andare a parlare effettivamente del festival, andarci a ascoltare un po' con i brani che ho selezionato di quello che sarà l'Hillside Fest di quest'anno, ho la domanda di rito iniziale, che probabilmente Harris ha visto qualche altra diretta, o anche Thomas ha visto qualche diretta o ha ascoltato qualche podcast. La faccio bene o male a chiunque, quindi con il don della sintesi vi chiedo a entrambi cosa sono per voi in NoFX, sapendo che si sono sciolti a fine del 24, quindi una band che ha caratterizzato per molti una buona impronta sulla musica. Cosa sono per voi NoFX? Vado io? Vai. Ma per me è colonna sonora della vita, praticamente. Quindi ascoltati da sempre, a parte magari gli ultimi lavori che non mi hanno proprio fatto innamorare, però colonna sonora, direi. Ci sta, quindi direi che è un più che positivo. Thomas, invece... Sì, anche per me sono un po' quella band must che sempre meno ascoltano tutti. Io vado un po' controcorrente, a me sono piaciuti anche gli ultimi lavori, cioè gli ultimi 3-4 dischi a me sono piaciuti parecchi, quindi per me è un po' quella band che ti fa iniziare a suonare, iniziare a dire ok, voglio fare magari qualcosa come loro, o cioè sono fighi e quindi voglio rifare anch'io qualcosa, e che fa iniziare la gente un po' a suonare. Ci sta, quindi... tra l'altro anche come avrai sentito, come hanno anche detto loro, Linoleum è la cover di NoFX che qualsiasi band ha fatto, tant'è che hanno rifatto una Linoleum spiegando un po' cosa c'era dietro, con tutti i vari video bellissimi. Quindi andatevelo a vedere se non ve lo siete visti. Quindi io sono anche in questo caso un attimo dalla parte di Enrico, perché effettivamente gli ultimi lavori mi hanno lasciato un attimo un po' così, però da live sono sempre più che apprezzati. Siamo vecchi. È quello, però alla fine io non sono quello, preferisco, non solo dico una volta erano, no, a me fa piacere anche che facciano le cose nuove, ma le cose nuove devono essere carine almeno, ecco. C'è stato qualcosa dell'ultimo che non mi ha lasciato dire neanche carino, però lasciamo stare, ognuno ha ovviamente il proprio pensiero a riguardo. Come dicevo, 333-180-94-94, se qualcuno volesse mandare un messaggio anche semplicemente di saluto a me o ai ragazzi dell'Inside Fest che sono qui collegati, oppure come spesso capita qualche commento sulla diretta Instagram che stiamo avendo. Veloci e rientriamo a parlare per l'Hillside Fest, come dicevo, quarta edizione. Tizio insieme a Bertie saranno i protagonisti di questa prima giornata del 4 luglio, e il prossimo ve lo svelo se non lo sapete già tra poco, quando ce ne andremo ad ascoltare. Quindi una domanda classica, canonica, che può avvenire, che posso andare a chiedere a chi effettivamente ha un festival che è da poco, comunque magari alle prime armi, per modo di dire, passatemi il termine: come nasce l'Hillside Fest, contando che ci sono tantissime realtà in Italia, grandi, piccole, medie, e quindi come avete deciso di far partire anche voi un festival con tutte, sapendo bene o male, vedendo anche altri festival, quali magagni ci possono essere dietro? Ma sicuramente non siamo partiti dalle magagne, quindi siamo partiti un po' più da quello che ci piace, perciò volevamo dare, diciamo, una valorizzata anche al nostro territorio. Avevamo deciso di provare a organizzare qualcosa qui da noi, perché non c'è praticamente niente, e diciamo che la musica forse è la cosa che ci piace di più, perciò è stata facile la scelta indirizzata verso la musica e niente. Avevamo deciso di farlo il primo anno nel 2021, e il giorno stesso in cui doveva esserci la prima edizione dell'Hillside già hanno entrato in vigore il Green Pass, quindi siamo proprio saltati, abbiamo skippato un anno. Abbiamo iniziato bene. Esatto. Però sì, dai, era un po' che ne parlavamo, che dovevamo insomma riuscire ad organizzare qualcosa qua, era quella un po' la sfida, il bello, ed è la sfida anche adesso comunque, che ci sì, la super sfida è quella, riuscire a portare su quassù un po' da noi, che per quanto sia adesso non è che abitiamo alla fine siamo a tipo un quarto d'ora da Cattolica, quindi siamo sì, abbastanza, siamo vicini, siamo in collina, però comunque siamo vicini a... Non siamo in Burkina Faso. No, non siamo in Botswana. Si dice comunque è facilmente raggiungibile come location e quant'altro. Dall'uscita dall'autostrada poi saranno 18 minuti di macchina, poi dopo siamo lontani ma vicini, insomma, ecco. No, ci sta. Solitamente come la storia, se bene o male, ci ha insegnato, molti festival sono effettivamente nati dicendo non c'è niente da queste parti, cerchiamo di portare un attimo di vita, e bene o male il discorso musicale è sempre quello che ha prevalso come scelta, a parte questo inizio purtroppo particolare che avete avuto in 2021, quindi come parlavamo nel fuori onda, inizio doveva essere la quinta edizione, quindi a sto punto mi collego con questa fantomatica prima edizione che è dovuta slittare all'anno successivo. Siete riusciti a mantenere tutto quello che volevate proporre come band, o c'è qualcosa che avete dovuto cambiare, o avete detto vabbè, vediamo il prossimo anno cosa passa in Italia o dall'Europa? No, abbiamo ricominciato tutto. Sì. Dalla prima edizione abbiamo cambiato tutto, abbiamo cambiato i gruppi, abbiamo ricominciato tutto da capo. Ok. Quindi abbiamo ricominciato, sì. No, vabbè, sì, era ovviamente perché tanti magari hanno cercato di mantenere quello che volevano proporre anche per gli anni successivi, però quel periodo lì è stato molto difficile per tutti. Allora, Zhang Li, adesso non so bene se è, shout out to my homies, non so, forse magari sì, è qualcuno dei vostri, io non so chi... Sì, sì, è il ragazzo che suona con me nei Packers. Ah, ok. È un fratello. Mannaggia, a saperlo, perché avevo infilati i Packers. Vabbè, dettagli. Esatto, perché li ho infilati in una playlist e non lo sapevo che era, facevi parte dei Packers, che tra l'altro siete usciti anche da poco con l'album. Piccola parentesi, comunque, ce lo ascolteremo. E riprendiamo la diretta. Intanto Paddy 81, grandi ragazzi. Sicuramente. Ciao Paddy. Immagino sia sempre uno dei vostri. Grazie del commento, sì, del saluto. E la cosa che ho notato andando a fare un attimo la scaletta, andando a scegliermi i brani italiani, sì, ma quest'anno tanta Romagna anche. Perché ho visto che bene o male 4 su 8, 10 le band che ci sono romagnole. Scelta casuale, voluta? Ma quando avevamo, diciamo, iniziato a pensarci, non era voluta, no? È stato un po' un caso. un sì. Cane. No, vabbè. Sì. Però dai, cerchiamo solitamente di far suonare i local, insomma. No, beh, ci sta più sì, che dai, le realtà più fighe, insomma, dai, anche nella zona ci piace proprio come obiettivo farli venire a suonare. Poi pensiamo un po', dai, agli head, poi dopo magari ci incastriamo. Ci potrebbe star bene. Sì. Il Berto, ci potrebbe star bene. Incastriamo. Sì. No, vabbè, ci sta ovviamente, anche perché comunque dal discorso romagnolo ci sono veramente tante band e da poter far suonare grandi, piccole e quant'altro, o grandi ritorni come questa comparsata che continua ad esserci, dei Marshmallows, che suoneranno nella seconda giornata. Sì. Cioè, non manca mai, bene o male, il discorso estero, anche comunque a livello internazionale. E adesso, piccolo spoiler, vi va di dire chi doveva esserci anche in aggiunta, oppure dici lasciamo stare, magari sorpresa per i prossimi anni? Sorpresa per i prossimi anni. Quindi purtroppo esatto. Va bene, infatti sono quelle cose che dici, vabbè, me lo tengo come cartuccia per i prossimi anni, metti che vada effettivamente in porto. Comunque, bene o male, come dicevo, quest'anno la fetta estera tocca ai Krang, che suoneranno nella seconda giornata con i Cheap Date, Action Man, Marshmallows e in chiusura Bull Brigade. Sì. Bene o male, ho notato bene o male che i festival, mi baso su altri che bene o male uno ha visto crescere negli anni, c'è sempre stato questo discorso: prima una giornata me la butto come una singola giornata, 4-5 band, poi comincia ad aumentare le giornate e comincia ad aumentare i palchi e quindi ad avere più possibilità di avere di scelta, di poter di chiamare altre band. Quindi questo è un discorso ovviamente futuro che magari state già pensando, magari per il prossimo anno, per le prossime edizioni che vorrete portare avanti, ma effettivamente è un discorso che volete portare avanti, anche questo discorso di avere un secondo palco e poter registrare anche su quello, oppure dici vieni qua, ti devi rilassare, quindi al massimo aggiungiamo qualche band e partiamo quella mezz'oretta prima, però se ti vuoi vedere tutto te lo puoi tranquillamente vedere tutti, piuttosto che stare a impazzire con il secondo palco. Ditemi voi. Questo non ce l'avevo mai pensato, questa roba. No, ancora no, sinceramente al doppio palco non ci abbiamo pensato. Già quest'anno diciamo che la novità è stata proprio quella di aggiungere la data, quindi il giorno prima. Ma al secondo palco sinceramente ancora non ci abbiamo pensato. Potrebbe essere un'alternativa per il prossimo anno, vediamo, dai. No, allora abbiamo sempre fatto uno step in più, cercando di mantenere i piedi abbastanza per terra per non far la botta. E okay. Però è sempre uno step in più, e quest'anno è due giorni, però probabilmente dovremo anche noi magari due giorni con due palchi, hai più scelta, più possibilità di chiamare band, magari dividerle anche un pelino in base a genere, orario, eccetera. Però secondo me andremo a finire lì anche noi. Dici piano piano comunque il... Sì. No, vabbè, sì. Qualcosa di nuovo, dai, cerchiamo sempre di aggiungerlo, però ovviamente... No, infatti, anche piccolo. Per fare dei passi troppo lunghi, insomma. No, vabbè. Sì, abbiamo anche. Perché poi dopo, per chi non è stato all'Hillside, è un po'. Abbiamo anche la location, abbiamo modo di crescere anche come location. E quello probabilmente potrebbe essere una novità per quest'altro anno. C'è stato anche il dibattito per quest'anno, ma per ora è rimasto così. Però sì, abbiamo varie cose, abbiamo dei piani per il futuro, insomma, ecco, questo sì. E rientriamo per l'ultimo paio di minuti prima della pubblicità a parlare sempre dell'Inside Fest. C'era una domanda che volevo fare, me la sono dimenticata, quindi me la ritornerai in mente. Ah, no, eccola. Ho notato la figata, come stavate dicendo prima, delle varie novità, che c'è questa campagna nuova che avete tirato fuori tramite i social, che ho visto di recente, questo scambio di magliette. Quindi se c'è qualcosa, quindi spiegandola meglio, se c'è qualcuno che ha magliette che non gli vanno più, sono relativamente rovinate, ma mi raccomando che siano in buono stato, perché era una delle regole dello scambio, le potete portare tranquillamente al festival, dove ci sarà un'area adibita, e volendo potrete scambiarvela con un'altra maglietta che sarà lì a disposizione, giusto? Quindi ho detto giusto? Quindi questa è la cosa. Le regole sono giuste, sì. Oh, bene. Praticamente porti uno, prendi uno. Ok, ci sta. Come è saltata fuori questa simpatico siparietto, perché effettivamente è molto simpatico, perché tutti bene o male siamo strapieni di magliette e sicuramente c'era qualcuno che non ci va più. Credo sia una cosa che fanno già al Punk Rock Holiday. Ok, quindi qualcuno che è stato Punk Rock Holiday ci ha proposto di provare a fare questa cosa qua e ci siamo buttati. Abbiamo provato. Vabbè, ci sta, anche perché comunque è a costo zero, quindi non devi neanche metterci fuori giusto un'area dedicata appunto a questo, a questa piccola curiosità, che comunque è sempre ben apprezzato. Seconda parte di Lestormo Rock, sono sempre collegato qui con Thomas ed Enrico, gli organizzatori dell'Inside Festival. Ci stiamo ascoltando vari brani di band che suoneranno effettivamente all'Inside Fest, ricordo 4 e 5 di luglio a Montegridolf sulle colline di Rimini. Un festival arrivato alla quarta edizione e ci stiamo, come dicevo prima, ascoltando la line-up bene o male di quest'anno. Nella prima giornata Tizio, Dio Bucolico e Berthier. Nella seconda, per adesso, abbiamo svelato, comunque, per chi segue l'Inside Fest ed è interessato comunque ad andarci, effettivamente ci siamo ascoltati Chip Date e Action Man. Dopo gli altri tre ci andiamo ad ascoltare, ovviamente, strada facendo. Magari è un po' prematuro, però è una cosa che bene o male vado un attimo sempre spesso a chiedere, perché so che bene o male è diverso per organizzare un festival, grande, piccolo, medio che sia, ci vuole veramente tanto impegno dietro. Quindi vi state già un attimo muovendo per quello che possa essere il prossimo anno, perché bene o male si sa che bene o male i tour partono già a essere organizzati quasi da un anno all'altro, bene o male. Quindi magari essendo in contatti con Booking, o appunto magari fortunatamente con qualche band in diretta, avete già qualche cosa in ballo. A lavorarci sicuramente ci stiamo già lavorando da adesso, però ancora non abbiamo pensato niente, c'è qualche idea che sta venendo fuori, però ancora di ufficiale non c'è niente, insomma. Però ci stiamo lavorando, sì, già da adesso, sì. La risposta, sì, politica, la risposta politica, che va bene sempre, ci ragioniamo. No, è più che doveroso, anche perché sono cose che non puoi fare dall'oggi al domani e puoi sperare di avere il top del top o quello che uno può aspirare ad avere. Quindi a sto punto quale sarebbe il nome magari che vi piacerebbe avere per i prossimi anni? Ops. Così a domanda bruciapelo, so che le band sono tantissime, che possono essere sia a livello italiano che a livello internazionale. Intendi sogno erotico o... Allora, detto effettivamente così era fraintendibile, però era inteso solo a livello di festival, ecco, buttiamolo giù così, andiamo a tagliare le possibili interferenze. Anche a livello di nome, se hai un nome erotico, sogno erotico di band. Allora, intanto Martina dice per l'anno prossimo vai Harry, spara grosso, quindi vedi che si sono svegliati poi. Allora, la band, una band che a me piacerebbe molto, senza stare a sparare incredibile, cioè senza sparare troppo grosso, a me piacerebbe un casino. Prima o poi, io non ho detto il prossimo anno o certo, da qui a finché, cioè, prima o poi, io vorrei chiamare i Flatliners. È una band che cioè, a me piacerebbe molto chiamarli. È una delle prime band che quando abbiamo iniziato e mi sono sempre detto prima o poi chiami gli Flatliners, li dovremo chiamare. Dai, figo, figo. Harry, invece a sto punto, facendo quello stesso ragionamento, qual è la band che il tuo piccolo sogno nel cassetto di poter portare all'inside? Spara anche un po' più in alto, spara anche un po'. Non lo so, dai, Rise Against, direi. Allora, adesso come adesso è veramente tanto grande, però ci sta, ci sta. Ci sta. Prima se devo mettere l'obiettivo in alto, dico quello. Sì. Giustamente, dici, se l'obiettivo sì, è sempre quello, sempre quello di crescita, ci sta, effettivamente. Quindi va bene, prossimo anno Rise Against the Flatliners al Inside Fest e rientriamo sempre per la seconda parte delle Storm Rock. Sono sempre qui che mi sto facendo due risate con i ragazzi dell'Inside Fest e intanto anche parliamo del festival. Piccola parentesi, dato che ho scoperto che Thomas fa parte dei Packers, se vuoi dirmi le date che avete voi da qui a fine anno, comunque quelle che avete già fissato, dimmelo pure, che così a promozione allora. Del nuovo disco. Da qui fino a fine anno faccio fatica perché da ottobre, novembre, dicembre ci stiamo lavorando adesso. Okay. E però quest'estate dobbiamo suonare domenica al punk rock al raduno. Ok. Al punk rock raduno. E poi dovremo suonare ad agosto in un locale sulla spiaggia a Porto Sant'Elpidio, una cosa del genere, comunque nelle Marche. Ok. Con dei ragazzi, con degli amici, insomma. Quindi per ora quest'estate abbiamo queste due, cioè fino a agosto abbiamo queste due date qua, poi dopo da settembre salterà fuori qualcosa, ma ancora niente di certo. Ok, buono. Sì, ci vediamo al punk rock raduno, è la prima, il più, diciamo, ci vediamo lì, ci vediamo al raduno. Ok, si dice quello la datona, per modo di dire, passami termine, senza sminuire quella delle Marche, però dici certo, il raduno, sì, però, è quello un po' più conosciuto, sì, per modo di dire, un po' più, sì, che dà un po' più visibilità, ecco. Sì. Allora, era un discorso che avevo tirato fuori anche qualche altra domenica con un discorso di sempre di festival, avendo il discorso del Lowell Fest, comunque anche lui, loro è un festival che sta crescendo negli ultimi anni. Avevo fatto questa domanda riguardante appunto i festival anche europei, come possono essere i nostrani, per modo di dire, comunque a livello europeo, Wacken e Del Fest, no? Questi festival con 150 band quasi a giorno, comunque magari una sessantina, con 5 palchi e milioni di persone che vanno a vederli, ma poi effettivamente uno si è interessato a vedere tante band nello stesso posto, gli diventa tanto difficile. Quindi ovviamente sperando che anche l'Inside Fest diventa così magari un pelo più gestibile, cosa ne pensate di questi festival super enormi dove devi effettivamente andare a dire io da un palco all'altro ci metto un'ora a camminare, devo segare qualcosa, devo decidermi qualcosa, quindi devo selezionare cosa andare a vedere nonostante mi piaccia quasi tutto. Cosa ne pensate di questi festival enormi? Un po' automatico, secondo me non è... Non mi piacciono tanto, sinceramente. Mi piacciono le dimensioni un po' più piccole. Cioè, non che non mi piacciono i festival grandi, però con le line-up, diciamo, un po' più contenute. Ok, ci sta, guarda. Più che per lo spostamento, a me è anche la durata dello show. Magari uno va a vedersi una band perché gli piace e poi se la vede suonare un quarto d'ora, 20 minuti, perché comunque ce ne sono talmente tante che i tempi sono stretti. E a me piace più vedermi, insomma, dai, qualcosa di più concreto, senza nulla togliere a un festival gigante così, perché comunque immagino che ce n'è per tutti, dai. Sì, ce n'è poco per tutti, esatto. A noi ci piace qualcosa un po' più lungo, ma adesso potrebbe sembrare una roba pornografica. No, però dai. Perché sei troppo malizioso, Harry. Cioè, ormai è la seconda che mi spari così. Ormai è il tema quello. No, dai, comunque ci piacciono magari i set un po' più lunghi piuttosto che magari di un quarto d'ora. Ecco. Sì. Sì. Che poi, per esempio, siamo andati, ormai sarà due mesi fa, non mi ricordo. Comunque siamo andati con i Packers a suonare al Manchester Punk Festival. Oh, ottimo. E è stato, cioè, quello è veramente un esempio di grande organizzazione e di un festival che funziona ed è veramente figo, perché è tutto in una zona di Manchester e tutte le venue sono a tipo 10 minuti a piedi l'una dall'altra, tutte super fighe, tutte, cioè, è ben organizzato e è vero, c'erano tantissime band, però c'erano anche tantissimi posti, uno aveva la possibilità di sceglierseli ed erano tutti molto vicini. Okay. In delle venue fighe, non magari il palchettino di lato, ma proprio una venue dedicata dove almeno 100, cioè noi abbiamo suonato alla domenica alle 2, che questo è un aneddoto che fa ridere un bel po', perché qua allora noi dovevamo suonare il giorno di Pasqua, quindi noi abbiamo suonato il giorno di Pasqua e Zano, che prima c'era, lo saluto, fa ridere perché su Babbo gli manda un messaggio che ci fa vedere mentre eravamo nella macchina di Carl dei Dark, che andavamo su, arriva il messaggio del Babbo di Zano, Zano ce lo fa vedere e il messaggio era: ma che cazzo vuoi che viene alle 2 del pomeriggio a vedervi del giorno di Pasqua? Proprio perché magari se ne immagina la risposta è stata sì, come per dire lei, ma che cazzo suonate alle 2 di Pasqua del giorno di alle 2? E lui giustamente lui gli ha risposto: ma va rabà, che mica suoniamo a Bertinoro, tipo il paesino di Cesena, vede, guarda che non siamo a Bertinoro. Infatti era strapieno di gente alle 2, è stato fighissimo. Però faccio per dire che se il festival funziona, c'è gente presa bene, anche avere molte band ha senso. Ok, senza niente togliere a Bertinoro, mi raccomando, mi raccomando, che qualcuno si potrebbe offendere. No, niente. Prossima edizione dell'Inside Fest a Bertinoro, che così evitiamo Bertinoro. qualsiasi problema. Bellissimo. Rientriamo per l'ultima decina di minuti di scarsi di Lestromo Rock, arrivati a conclusione della puntata. Faccio inizio un po' con i ringraziamenti e quindi, come dicevo, grazie della disponibilità, ragazzi, Thomas ed Enrico, per dell'Inside Fest. Grazie a voi e a tutti quelli che sono in diretta o che ascolteranno. Grazie, ricordo anche che la playlist dedicata all'Inside Fest salterà fuori su Spotify, su Lestromo Rock Radio e sulla pagina appunto del programma di Spotify, oppure ci sarà il podcast, anche lì andrà su archive.org, sempre sulla pagina dedicata di Lestromo Rock. Come dicevo, domanda finale con la scarica barile, quindi c'è qualcosa che non vi ho chiesto che vorreste dire? Ah, proprio così? Scarica barile, te l'ho detto. Te l'ho anche anticipato che la scarica barile. È vero. Allora, c'è qualcosa. Allora, volevo salutare i Loquality Life che sono usciti adesso e non c'è stato modo di mettere la canzone, però ci sono anche loro. Sarà la prima band che suona il sabato. Quindi un saluto a tutti i ragazzi dei Loquality Life. E poi cos'altro? Ci vediamo il 4 o 5 di luglio. Ci vediamo il 4 o 5 di luglio, sì. Ok. Grazie. No? Sì. Dobbiamo scaricare di più? No, va bene. Io è sempre la domanda scarica barile. Quindi c'è qualcuno che dice: no, va bene così, siamo a posto. Qualcuno nel parlare dice: ah, sai che? E quindi guarda, va benissimo, sì. Così. Sì, no, io magari tipo adesso ho fatto più che scarica barile, ho fatto tipo i ringraziamenti. Mi sento insomma così di salutare appunto i ragazzi dello Quality Life e tutti quelli che ci danno una mano, perché alla fine noi siamo due, ma siamo tre, perché c'è Yaki che in questo momento è al Fire a prendere un po' di fresco al Firenze Rocks, e quindi in realtà siamo tre, però per tirare avanti una realtà così comunque c'è un sacco di lavoro dietro e noi ci occupiamo di alcune cose di supervisione e di alcune cose, ci siamo divisi bene i ruoli eccetera, però ci sono tante altre persone che non vengono mai magari prese in considerazione, che stanno dietro le quinte, che aiutano da quelli che fanno parcheggiare a quelli che ci aiutano a montare il palco i giorni prima, le 2 di pomeriggio, a tutti chi spilla la birra, chi ci aiuta. Queste sere già abbiamo iniziato a vederci, mancano 2 settimane ancora, cioè abbiamo già iniziato a vederci tutte le sere per preparare il backstage, le cucine eccetera. Siamo una tipo trentina di persone, chi starà al merch, chi starà, insomma, chi si occupa di tutti i banchetti. Quindi dai, mi sento di ringraziare anche tutti gli altri che magari non appaiono, però si danno da fare e sono anche più belli di noi, devo dire. Tra l'altro, sì, vabbè, però... tanto sono i pixel di mezzo, quindi guarda. È comunque così, sì. No, va bene, va bene. Il mio barino l'ho scaricato, il mio barino piano, questo che dobbiamo appoggiare. No, vabbè, hai fatto bene. Alla fine ci sono tante cose dietro che magari uno non pensa. E sì, che effettivamente sì, ci sono tanti discorsi dietro, che dici magari anche in quest'ora uno che si guarda queste canzoni, che si ascolta, in realtà ci metto veramente tanto a sistemare tutte queste cose dietro, quindi e mi vuole in un attimo, quindi dici che cavolo, però comunque, a parte questo, io vado effettivamente a chiudere la puntata ringraziandovi nuovamente la disponibilità. Ricordo 4-5 luglio il Side Fest Monte Ghidolfo sulle colline di Rimini, e ciao ragazzi e alla prossima, come di consueto, però buon punk rock a tutti.